Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, magari sarà anche un parallelo azzardato, ma a me sinceramente non pare. In ogni caso, avrebbe dovuto organizzare le Olimpiadi un paese la cui principale azienda di comunicazione, tenuta in piedi da noi, col nostro canone, non riesce a far funzionare un sistema di televoto per delle canzonette. Per un programma di livello talmente infimo che l'azienda stessa ha deciso nel frattempo di commissariare e stanno cercando di trovare la formula di questo commissariamento. Più che mai mi pare l'unica soluzione possibile è quella che ieri il governo ha adottato e il cui senso, le ragioni, adesso riascoltiamo nelle parole del mio idolo personale, in questo caso il primo ministro Mario Monti. Ho tenuto ad avere un dibattito molto attento in Consiglio dei Ministri. Siamo arrivati alla conclusione unanime che il governo non ritiene che sarebbe responsabile nelle attuali condizioni dell'Italia di assumere questo impegno di garanzia. In questo senso non ci sentiamo di prendere un impegno finanziario che potrebbe gravare per di più per misura imprevedibile sull'Italia nei prossimi anni. Questo non significa affatto che l'Italia debba rinunciare ad avere mete ambiziose, ma in questo momento non pensiamo che sarebbe coerente impegnare l'Italia, il governo italiano, in questo tipo di garanzia che potrebbe mettere a rischio denari dei contribuenti. Più chiaro di così, direi che sarebbe difficile. Ovviamente il fronte di chi le Olimpiadi le voleva ad ogni costo non l'ha presa benissimo, c'è chi l'ha presa male in maniera anche accorata e sofferta, come il presidente del CONI Petrucci, ma è normale che sia così, sentiamolo. Ci ha rappresentato che è un progetto serio, credibile, con conti ben fatti, ma che solamente in questo momento il governo non se la sentiva di prendere questo impegno finanziario. Rimane un sogno che è svanito, rimane una candidatura credibile. Il nostro compito è stato eseguito perfettamente. Questo è il mio dispiacere. Non abbiamo fatto nulla di strano e di diverso da quello che il governo ci aveva chiesto. Diciamo che non è un periodo dei più rosei per il presidente Petrucci, che stamane però ha rincarato un po' la dose a Canale 5, sto leggendo un'agenzia, dicendo: i conti potevano farli prima. Se in 7 anni un governo non può impegnare in tutto 4 miliardi con i ritorni erariali e quindi quasi a costo zero, allora c'è veramente da essere preoccupati. Io continuo a pensare che possiamo fidarci di più se i conti li fa Mario Monti e non Petrucci, così a spanne, senza voler mancare di rispetto a nessuno. Interventi a Iosa ovviamente su questo argomento e su altri, poi ce n'è uno meraviglioso. Andrea scrive da Sassuolo, dice: sicuramente lei può sapere se Faustino Aspriglia gioca ancora e dove. Ma senta un po', Andrea, come le viene in mente una cosa del genere? Io capisco che ad altri si possono attribuire devianze di ogni genere, ma insomma la devianza di sapere dov'è, cosa fa e se ancora gioca Faustino Aspriglia, sinceramente non me la aspettavo. Adesso vedrà che magari qualcuno in redazione si scatena e riusciamo a soddisfarla, però non vorrei che prendesse piede questa specie di chi l'ha visto, no? Dunque non gioca più, mi scrive in tempo reale Franco Piantanida da di là dal vetro, dalla redazione, dalla regia: non gioca più, si occupa di scuole calcio in Colombia e vorrebbe entrare in politica, si è ritirato fin dal 2005, insomma io mi auguro che si occupi davvero di scuole calcio e che se passi la vita migliore possibile, se poi anche non entrasi in politica, credo che il danno per la politica stessa sarebbe abbastanza relativo. Lunedì sarà stilato, leggo in un'altra agenzia, il calendario della procura della FIGC sulle audizioni relative al processo di Cremona per il calcio scommesse, con comodo ovviamente, perché l'importante secondo me in queste cose della Procura Federale è evitare lo stress, bisogna sempre stare molto attenti a questa malattia dei tempi moderni. Oh, si gioca, stasera si giocano partite assai importanti, sia in campionato che in Coppa. Allora io sentirei brevemente le due vigilie principali, che sono una quella di Milan-Arsenal, ma prima ancora, in ordine anche di tempo, alle 18.30 a Parma, e a Bergamo si giocano i due recuperi, Atalanta-Genova e Parma-Juventus. Sentiamo Conte. Io parto da un presupposto, che quello che ci sta accadendo quest'anno ci rende molto felici, perché da tanti anni che la Juventus non la viveva da protagonista, non la viveva da essere tornata competitiva, quindi questo è tutto uno stress positivo. Per noi è eustress, non è distress. Sapete, ci sono due tipi di stress, no? Cioè eustress, che è quello positivo, e distress è quello praticamente negativo. Per noi è stress positivo, perché ci sta capitando un qualcosa di bello, un qualcosa che ci deve riempire di soddisfazione e di orgoglio, perché siamo tornati ad essere protagonisti, siamo tornati ad essere competitivi in pochissimo tempo, ecco. Speriamo che questo discorso qui l'abbia fatto alla stampa e non alla squadra il buon Conte, secondo me qualcosa, perlomeno in termini di chiarezza, di intenti e di idee, stasera la Juve rischierebbe a Parma, anche perché il Parma ha tutte le migliori intenzioni di giocarsi una signora partita, non avendo particolari problemi da classifica, tant'è vero che questa è l'intenzione dichiarata di Robertino Doradoni. Ci siamo allenati comunque bene, abbiamo fatto quello che era un po' nei programmi, abbiamo sfruttato il sintetico, che ci ha dato una grossa mano dal punto di vista della preparazione. Siamo pronti, cercando di giocare al meglio, al massimo delle proprie possibilità. Noi abbiamo indubbiamente inanellato in queste quattro partite delle cose positive, importanti, e adesso dobbiamo sapere che se abbiamo fatto tanta fatica fino ad oggi, dovremmo farla quattro volte di più da qui in avanti. Carina questo messaggio firmato Mauro, che ovviamente è spiritoso, si riallaccia a quello di prima e dice: scusi, mi può dire se Maicon gioca ancora o meno? In teoria sì, caro Mauro. La vigilia, perché poi avremo una ampia parentesi particolarmente interessante nella seconda parte del programma. Dicevo, la vigilia del Milan di Allegri. Sappiamo della forza dell'Arsenal, che gioca un ottimo calcio, un buon collettivo, con dentro dei giocatori singoli che ne esaltano le qualità di questo collettivo. È normale che bisognerà fare una partita di grande attenzione, soprattutto quando siamo nella fase difensiva, anche perché non è una partita secca, ma una partita che si gioca su 180 minuti. Come avete ascoltato fin qui, la grande maggioranza degli italiani è d'accordo con il no di Mario Monti alle Olimpiadi di Roma, poi per varie ragioni, ma insomma è sostanzialmente d'accordo. Mi viene in mente, a 6 mesi dalle Olimpiadi di Londra, invece, come la pensano gli inglesi? Vi ricordo, 27 luglio 2012. Lo domando a un docente di storia italiana contemporanea alla University College di Londra, autore tra gli altri di alcuni libri sullo sport italiano, Storia dello sport che ha fatto l'Italia, di Rizzoli 2007, Pedalare, la grande avventura del ciclismo italiano, Rizzoli 2011. Sto parlando di John Foot, che i più affezionati di voi ben ricordano per i suoi interventi in questi anni dedicati allo sport britannico e al nostro, sempre da un punto di vista del costume e dal punto di vista sociale. Hello John! Ciao Gigi, come stai? Bene, molto bene, grazie. Ecco, mi sembravi la persona più indicata oggi, oltre che per altre ragioni, che poi scopriremo cammin facendo, per chiederti che cosa pensano gli inglesi. Cioè, in Italia questo no, abbastanza a sorpresa, ha dato sollievo alla gente, al popolo, diciamo, che non avrebbe visto di buon occhio investimenti, spese in questo momento di grave crisi economica per dei giochi olimpici. Gli inglesi sono felici di queste Olimpiadi o rimpiangono magari qualcuno di loro che a suo tempo non ci sia stato un professor Monti a bocciarle? Credo che c'è un misto di sentimenti, c'è molto attesa. Sì. Ci sono i biglietti tutti venduti, gli stadi costruiti, ci sono già eventi in questi stadi, comunque già, comunque al mondo dove sto io c'è attesa. Però dall'altra parte c'è molte preoccupazioni per la spesa che avrà doppiato più o meno da quella iniziale. Anche noi abbiamo una bella crisi, momento di austerità, disoccupazione altissima, come voi, anche un debito bello che abbiamo anche noi. Discreta. E quindi c'è questo misto di cose. Chiaro che è stato deciso in momenti molto più floridi, certo, prima della crisi. Adesso viviamo questo momento di crisi, credo che sarà visto con questo misto di sentimenti. Non è proprio un'Olimpiade dell'austerità, ma un po' sì. C'è questa idea che devono riciclare tutto e fare l'Olimpiadi non con i fasti di quelli degli anni 80-90. Certo, non con i fasti del passato, ma provare in prospettiva perlomeno a ridimensionarle. Tu, per come tu conosci la situazione italiana, e dicevo prima che un docente di storia italiana contemporanea evidentemente la conosce bene, per come conosci la nostra situazione, come valuti la decisione del governo italiano? Ma chiaramente è un peccato non avere un'Olimpiadi. Quella di Roma nel 60 erano bellissime Olimpiadi, quindi adesso c'è scritto molte cose su questo, però in questo momento non credo che si può permettere cose così. E in più c'è l'esempio dell'Italia 90 che sì, un bel torneo, ma accompagnato da tantissimo azioni, scandali, un po' Tangentopoli comincia lì. E quindi credo che è un pericolo anche questo. Poi pioggia di soldi. Un pericolo che in questo momento l'Italia non poteva permettersi evidentemente di correre. Senti, cambiamo capitolo, questo in fondo quando avevamo deciso di sentirci, questo capitolo non sapevamo ancora, quello olimpico che sarebbe stato così attuale. E il nostro contatto era nato per queste recrudescenze di razzismo di cui l'Inghilterra è preda nel suo calcio. Adesso c'è Evra, prima c'era stato il caso di John Terry, ma che sta succedendo di nuovo in Inghilterra? Da una parte c'è molto più attenzione a queste cose. Prima, credo, anni 70-60 era molto spessissimo, si sentiva i tifosi anche in campo delle radio artiste, nessuno faceva niente. Adesso c'è molto più, si fa qualcosa quando succedono queste cose. Certo. Quindi è questo che c'è, questo cambiamento generale nella attenzione al razzismo, alle frasi, al linguaggio in generale. Non avrei mai pensato dei tifosi che attaccano gli altri squadre per essere razzisti. Sì. Non avrei mai pensato di vedere una cosa così invece, in Inghilterra, avendo vissuto negli anni 70 negli stadi. E invece ci siamo arrivati. Quindi tu dici una maggiore sensibilità del pubblico su questo problema, quindi un fatto molto positivo allora. Io credo di sì. Credo che era ora che si cominciava di combattere. Anche c'è stata una campagna lunghissima su queste cose fuori e dentro gli stadi, e quindi non è un lavoro, questa è quasi la fine del lavoro. Certo. È chiaro che non si abolisce il razzismo in questo modo, però l'attenzione è molto di più. Certo. E poi il caso Suarez è un caso molto particolare in questo senso, gestito malissimo da Liverpool, devo dire. Già, senti, al punto che leggevo ieri, certo è una notizia minima, però si dice sempre i bambini ci guardano, no? E leggevo che prima di Aston Villa Manchester City un bimbo mascotte si è rifiutato di dar la mano alla mascotte avversaria. Erano tutte e due ragazzini bianchi, non c'era nulla di razzista. Però, come dire, purtroppo questi comportamenti deviati, i bambini, noi dobbiamo ricordarci che i bambini ci guardano. Sì, assolutamente. Questa roba di stringere la mano prima della partita è stato messo su dalla Premiership e adesso diventa quasi un problema perché è obbligatorio. È vero. Io mi piaceva di più quando era spontaneo, no? Sono d'accordo con quindi, te. Quindi adesso diventa cosa che non ha nessun peso, perché comunque chi è davanti non lo sa. Certo. E poi quando c'è Calziani come Suarez o Terry o c'è stato Bridge e Terry anche, sempre Terry in mezzo. Non so, diventa un problema, ma nell'eccezione, se no non significa niente. Certo. E quindi sì, certo, i bambini, queste sono tutte cose che purtroppo Liverpool, devo dire queste cose, Liverpool ha gestito male molto male tutto questo caso, è finito sempre diventato sempre più importante, e i tifosi di Liverpool adesso difendono squadra tratta Suarez, che non mi sembra una buona cosa. No. Però è così, il fatto è così. E questo è un po' un problema, credo, per il futuro. Questo Liverpool-Manchester sarà molto teso per un po' di tempo adesso. Certo. Senti, noi ricordiamo bene, sia gli ascoltatori che io, che tu sei uno storico appassionato dell'Arsenal. E quindi, se adesso parliamo brevemente della vigilia di stasera di Milan-Arsenal, ti facciamo un piacere o un dispetto? No, mi fa un piacere, perché queste partite con le squadre italiane sono i miei preferiti. Un po' perché le abbiamo un po' vinti, sì. E un po' perché per me, che sono tifo dell'Arsenal, studioso del calcio italiano, è il massimo. Certo. No? Quindi sì, mi fa molto piacere. Senti, noi da qua leggiamo, per carità, noi vediamo le partite dell'Arsenal, così mi par di capire che ha ritrovato un bel passo, soprattutto una bella corsa. Ha ancora forse qualche fragilità difensiva di troppo? È un'analisi che ti convince oppure ne è un'altra? No, è giustissimo, è un inizio della stagione disastroso, sì. Avendo perso Fabregas e Nasri, no? i due migliori più certo. o meno al stesso momento, e non avendo preso degli altri, l'inizio un 8-2 a Manchester, no? Queste cose qui, sì. Poi ripresa abbastanza forte con Van Persie straordinario da solo, sì. Ha giocato da solo per molto della stagione, senza di lui saremmo in zona Serie B, secondo me. Ma adesso è una bella squadra, molto fragile in difesa, un buon portiere, ma un po' fragile indietro. Nel pacchetto arretrato, però un buon portiere, insomma. È una sfida alla pari quella, secondo te, con il Milan di oggi, che non è un grande Milan, anzi direi che ha avuto questa fiammata Udine anche molto, molto fortunosa, ma non sta certamente attraversando un buon momento. È venuta a giocare la Juventus a San Siro e non solo ha giocato alla pari, ma ha vinto dominando la partita, anche perché il Milan aveva molte più assenze di quante non avrà adesso. Secondo me il Milan è leggermente favorito, sì. In questa partita, cioè, è una bella sfida, ma sta un po' meglio il Milan che Arsenal in questo momento. Però può succedere di tutto, e c'è Henry nella prima partita, quindi questa è un po' la cosa in più o in meno, non si sa come farà, però comunque c'è. Henry stasera gioca in teoria la sua ultima partita di questa breve parentesi nell'Arsenal. Tu te lo vedi in campo e a che punto della partita? Ma credo che entrerà dalla panchina, l'ha fatto 3 volte, ha segnato 3 gol. lui non ce la fa di giocare i 90 minuti certo. in questi livelli, anche fisicamente. Però i movimenti, l'idea dello spazio, queste cose qui, come Scholes, tra l'altro, che è tornato incredibilmente a giocare meglio di prima. È vero, da, no? da grande protagonista però. Sì, dicono che giocherà gli europei adesso. Redknapp, vorrebbe portarlo, se c'è Redknapp. Comunque sì, Henry ha dei movimenti, ma non 90 minuti, no? Poi è non lento in confronto di prima. Però sì, credo che dipende dal risultato, ma entrerà 15 minuti, 20 minuti dalla fine. Certo, io sto parlando con te, John, però ovviamente sono collegati tantissimi milanisti, quindi io posso soltanto dire vinca il migliore, perché non posso permettermi di andare oltre, e poi si vedrà chi sarà stato, sempre tenendo conto che stasera si gioca il primo tempo di una partita il cui secondo sarà poi a Londra sotto i tuoi occhi. Grazie, John. Grazie mille. Grazie davvero. Arrivederci. Molto bello questo messaggio firmato Eugenio da Bergamo. Ho appreso oggi che del Comitato Olimpico faceva parte Geronzi. La mia gioia di ieri è diventata esultanza incontenibile. Sottoscrivo integralmente. Dunque abbiamo alcune persone, alcuni di voi che vogliono intervenire, abbiamo notizie di ogni genere, abbiamo qualche voce da ascoltare. Paolo Maldini potrebbe raggiungere Carletto Ancelotti al Paris Saint-Germain fin da giugno. Questa è la tesi sostenuta oggi da un quotidiano francese, Le Parisien. Non c'è ancora nulla di firmato, di concluso, ma potrebbe esserci qualcosa di concreto a breve termine. Allora, cominciamo da Pescara. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo rallegrarmi con il no di Monti, perché almeno per una sera in qualche villa romana sarà sceso un velo di tristezza, a differenza di quella notte del tragico terremoto abruzzese, quando si ridacchiava già grazie agli imminenti business futuri. Già, già. È un problema di linea, è saltata la linea? Sì, allora andiamo alla telefonata successiva, poi no, non c'è nemmeno lui. Abbiamo un problemino di blackout oggi. Allora, molto semplicemente, andiamo a... Torniamo, facciamo un passo indietro a ieri sera, perché c'è stato il ritorno, come abbiamo detto, come si diceva ieri, no? Di Coppa Campioni. È stato un ritorno in sordina per quanto riguarda le italiane, non tanto in sordina in assoluto, visto che giocava la grande rivelazione di stagione, che era Poel, che ha perso a Lione, ma soprattutto è tornata in campo la squadra detentrice, che è il Barcellona, che ha vinto anche abbastanza bene a Leverkusen. Allora sentiamo Guardiola sul momento del suo Barcellona. Risposta nel calcio, nello sport deve vincerlo sempre, ma noi non è che siamo regolari, abbiamo vinto 3 titoli, siamo in finale di un altro, competiamo contro una squadra fortissima come il Real e hanno successo tante cose in queste partite, a questo inizio campionato, ma tante che noi non possiamo del tutto controllare, ma questi sono un artisti di come si deve competere, come si deve comportare in giocatori professionisti, questo l'hanno dimostrato migliaia, centinaia di volte, ma insisto, non è che siamo male, è semplicemente che prima abbiamo stato terriblemente bravi, e per questo. Beh, l'italiano non l'ha dimenticato, neanche la nettezza dei concetti, direi. No, oggi il Barcellona non ha niente che non vada. Era prima che non era normale, perché giocava troppo bene e vinceva troppo, ed è vero. A parte il fatto che poi di non ha ancora smesso per il momento, perlomeno non ufficialmente, quindi stiamo ancora a vedere. Sergio, in linea da Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Dica, per il signor Gigi. Sono molto contento di questa decisione del signor Monti, perché in effetti basta con questi sprechi, con questi carrozzoni, non era proprio il momento, e quindi forse è bene che qualcuno si dia una regolata, e comunque questa politica veramente ha rotto ogni equilibrio, per cui è una decisione saggia che condivido pienamente. Sergio, credo che la sua sia l'opinione largamente più condivisa in questo momento, cioè c'è una netta maggioranza che ha condiviso questo genere di impostazione. Io non so se Monti governi anche attraverso l'uso dei sondaggi, come per esempio faceva in maniera persino un po' maniacale il suo predecessore. Può darsi che li usi, se gli è servito per decidere. Io credo che dalle reazioni che si stanno ascoltando, leggendo e vedendo dopo, credo che effettivamente abbia, al di là del rigore che veniva prima, ma che abbia anche interpretato il sentimento della maggior parte degli italiani, ma direi della larga maggior parte degli italiani. Andrea Lecce, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Granzini. Dia. Io ieri sono rimasto veramente colpito, oltre allo spettacolo che hanno offerto Bayern, Leverkusen e Barcellona, della tenuta del campo, uno spettacolo, vedere che pioveva chissà da quanto tempo, campo perfetto, pallone, rimbalzo. Perché in Italia non è possibile vedere una partita di calcio così? Andrea, cioè, perché sono 4 mesi che non riusciamo a vedere una partita di calcio su un campo bello, è impossibile. Sai cos'è? Che se avessimo fatto le Olimpiadi magari facevamo i campi belli, no? Perché questa è una delle a proposito, visto che la lingua batte dove il dente, questa era una delle fesserie con cui ci hanno ammannito i mondiali del 90, che grazie a quegli investimenti, grazie a quella montagna di quattrini investita allora, e da cui poco fa ha ricordato John Foot, no? Storico contemporaneo, di docente di storia contemporanea italiana in Inghilterra, ci ha ricordato lui che fu l'inizio, uno degli inizi di Mani Pulite, proprio quell'avventura, anzi disavventura di Italia 90. Ecco, una delle cose che si raccontarono allora per far accettare al paese spese deliranti fu che l'Italia avrebbe avuto almeno avrebbe avuto strutture e infrastrutture, stadi moderni, eccetera. Non so se li avete presenti, ecco, quello che sono, ma non a 20 anni di distanza, anche da subito, per dire, San Siro non è mai più stato un campo di gioco esattamente dopo i mondiali del 90. Massimo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Telefonavo per le Olimpiadi. Io sono un imprenditore, lavoro nel campo degli impianti natatori. Sì. Dopo quello che ho visto per Roma 2009, direi che Monti ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto, a lasciar perdere almeno per il momento le Olimpiadi, perché io ripeto, costruisco impianti natatori e a Roma sono stati spesi 420 milioni di euro. Con 420 milioni di euro si costruiscono più o meno un 35 impianti natatori da 50 metri in tutta Italia. E lì invece ne ha fatti? A Roma ne hanno fatti, sono riusciti a ristrutturare il foro italico, una spesa di 200.000 euro, e sono andati via 420 milioni di euro per fare le piscine di chi le gestisce in maniera privata. Questo è uno scandalo ed è una cosa che assolutamente in Italia deve finire se noi vogliamo portarci a casa le Olimpiadi. È inaudito che in Italia tutto costi 5-6 volte di più di quello che costa in Germania o in Francia. Fino a quando noi rimaniamo a questi livelli è inutile pensare di portarci a casa le Olimpiadi, cioè proprio lasciamo perdere. Certo. È quello che ha deciso, no? In effetti il governo, certo, una testimonianza come la sua che è una testimonianza di parte, ma di parte nel senso di parte competente, intendo dire, e che oltretutto immagino, no? Sia una decisione che lei subisce in un certo senso, perché un imprenditore del settore avrebbe, perlomeno in teoria, avuto possibilità di partecipare, se non altro, a questa avventura, e lo dico nel modo più serio e trasparente possibile. Il fatto quindi che il suo sia un intervento di questo tenore rende ancora più significativo quello che lei ha detto sulla base di quello che accadde a suo tempo, ma a suo tempo molto ma molto drammaticamente recente. Giuseppe, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Volevo fare una puntualizzazione sul Barcellona, sì. Visto che si dice che l'anno scorso era estremamente bello, ma quest'anno è estremamente normale. Ma non si fa riferimento che a gennaio ha giocato l'Intercontinentale, e come tutte le squadre che giocano l'Intercontinentale fanno una preparazione specifica, e quindi è un piccolo calo di forma a febbraio, niente di che. Potrebbe essere, Giuseppe, potrebbe essere entro certi limiti, però, perché qualche guaio del Barcellona era cominciato già anche prima. In realtà loro quest'anno hanno avuto una serie di infortuni a cui non erano oggettivamente abituati, hanno avuto 7-8, direi anche una decina di infortuni abbastanza gravi, io gravi considero quelli dal mese in su. L'unico attaccante, diciamo, sfondatore, per usare un termine un tempo, l'unica punta vera di tutta la rosa, cioè David Villa, l'hanno perso a dicembre, proprio a quel mondiale lì, per l'intera stagione. Hanno avuto problemi, e credo che questo, sì, probabilmente combinato anche con questa cosa, possa aver causato. Però vede, l'anno scorso l'Inter, per esempio, dopo il mondiale per i club, iniziò invece quella sua rimonta al Milan prima di crollare poi all'inizio di aprile, quindi non ci sono regole, dipende da come una società il percorso l'ha imposta, insomma. Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'opportunità. Io volevo intervenire in merito alle Olimpiadi e alla delusione perché non vengono effettuate, se non altro per la delusione, non per la scelta, la valutazione dell'onorevole, ma perché comunque questo è una sconfitta della nostra società, perché in questo modo noi rinunciamo a una festa, un'opportunità economica, per paura di chi ne avrebbe approfittato. Questa è una grande sconfitta per la civiltà. Sì, in quest'ottica sì, questo è un ragionamento che ci sta, però bisogna avere il coraggio ogni tanto di rinunciare, no? Sapendo quali sono i presupposti, sapendo qual è il profilo morale attuale del nostro paese, della nostra classe dirigente o digerente, come la chiama qualcuno. Io credo che sia un gesto di profonda responsabilità, quello di dire oggi non siamo all'altezza di fare questo. Poi il Premier ha detto non siamo in condizione, non ci sono i presupposti economici, non possiamo correre questi rischi, non possiamo ancora slacciare le cinture. In realtà voleva dire anche qualcosina d'altro, io credo, e credo anche che sia ancora molto, ma molto lungo il percorso che consentirà un giorno a questo paese di poter assumere degli impegni in un consesso sia nazionale che internazionale, ma di poterli assumere in buona fede, sapendo che tutto quello che poi farà o cercherà di fare lo farà in maniera si sforzerà perlomeno di farlo in maniera trasparente e non in maniera corrotta. È il momento di sentire che cosa Nicola Filippone ha trovato per il 15 di febbraio. Sembra ieri. 15 febbraio 1993. A sorpresa, il presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini annuncia un doppio colpo di mercato. In estate arriveranno dall'Ajax il centrocampista Wim Jonk e l'attaccante Dennis Bergkamp. In particolare, l'acquisto di Bergkamp spiazza la stampa italiana, che dava quasi per certo il passaggio di quello che viene considerato l'erede di Van Basten alla Juventus. L'auspicio della dirigenza nerazzurra è dare vita con i due olandesi a un ciclo vincente, ma le cose andranno diversamente. Arriverà sì una Coppa UEFA, ma Jonk e soprattutto Bergkamp deluderanno le attese e andranno via entrambi dopo due stagioni. Vero. Leggo su Sole 24 Ore, scrive Michele Giliberti da Bari, Mario Pescante, presidente del comitato promotore per Roma 2020. Bastano questi nomi e cognomi per dire no a questa candidatura, sempre le solite vecchie facce. Beh, immagino e mi auguro niente di personale da questo punto di vista, caro Michele, però certamente sì, se facciamo qualcosa di, se dobbiamo fare qualcosa di nuovo e di coraggioso, beh, insomma, facciamolo, capisco il messaggio, facciamolo con delle facce nuove anche, no? Facciamolo con un'aria rinnovata, diamo aria alle stanze. Teresio, provincia di Cremona, buongiorno. Carissimo dottor Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, io mi permettevo di intromettermi dopo l'intervento di quell'imprenditore che costruisce impianti natatori. Impianti sì. Ecco, io vorrei, se fosse possibile, fare una specie di podcast di quell'intervento e mandarlo al signor Petrucci, il nostro presidente del CONI, il quale si è lamentato per la decisione presa da Monti, che io ritengo la più giusta e la più valida in questo momento. Certo che naturalmente quell'imprenditore lì di Milano, mi pare fosse, sì, non è sicuramente amico di Petrucci, perché Petrucci mi pare che tutto sommato abbia un qualcosa da dire a noi e da specificare e da scusarsi per quello che non ha mai fatto, per quegli interventi fatti appunto su quegli impianti natatori di Roma, che sono tuttora non finiti e che ci hanno messo in condizione di spendere un'infinità di quattrini. E cosa vorrebbe? Che ne spendessimo altrettanti per avere ancora condizioni non fruibili come quella? Non lo so. Se voi mandate appunto l'intervista fatta a quel signore, a quell'imprenditore, a Petrucci, penso che possa rivedere la sua posizione. Lei sarebbe per infierire, insomma, mi pare di capire. Io credo che se l'ha voluta capire l'ha già capita anche senza bisogno di quel podcast, però perché no, in fondo potrebbe essere un'idea. Certo è stato un intervento coraggioso da un lato e molto ma molto significativo dall'altro, e la conferma è che lei ne ha accolto immediatamente lo spessore e direi anche la portata. Farei una parentesi perché tra le tante voci che Franco Piantanino ha preparato anche oggi per così da fare da proporre, da fare ascoltare o riascoltare a seconda degli impegni di ciascuno, sintonizzato a quest'ora con sulle nostre frequenze, Moratti si è espresso sulla contestazione nei suoi confronti. Sentiamo. Niente, continuiamo da qui alla fine dell'anno, bisogna far bene, non si può far male. E vabbè, la gente è libera anche di esprimersi, poi qualcuno si diverte anche, qualcuno l'aspettava da tempo, qualcuno vuole fare un po' di scena, però comunque il tutto è consentito, insomma. L'Inter è così, il pubblico dell'Inter è così, tutti siamo così, nel senso che se teniamo l'Inter perché c'è una certa vivacità, vuoi sempre ottenere qualche cosa di diverso, sai sopportare anche le situazioni difficili, ma certe volte devi far capire, e vogliono farmelo capire, quanto sia più difficile di quello che pensano che io non abbia capito. E poi penso che avessero paura che, non so, in questo momento venga Snyder, tutte queste cose che giustamente per trasmetterle devi fare qualche cosa, e hanno cercato di fare qualche cosa. Ieri pomeriggio a Sky Sport 24, scrive Paolo, erano a lutto stretto per la mancata candidatura di Roma, però il solito sondaggio sul tema del giorno proposto dal canale era spietato, il 75% di chi aveva votato era d'accordo con la decisione di Monti, nonostante la presa di posizione di alcuni ospiti in studio e di uno in particolare, adesso non stiamo a esagerare con i nomi e i cognomi perché non ha poi questa grande importanza. Domenico, provincia della Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Questo volevo dire, che è il giusto premio alla classe dirigente, come l'ha chiamata lei, per il modo di apparire e mai di concretizzare le cose nel passato. Al momento che hanno trovato uno che come Monti va a guardare nella sostanza, è chiaro che li bocciava, cosa si aspettavano? Ah, difatti non si capisce bene perché, le ripeto, tra le dichiarazioni più sbalorditive che ho letto negli ultimi tempi c'è questa di stamane di Petrucci, no? Che ha, d'altra parte era un duetto con, leggo dall'agenzia, era un duetto su Canale 5 con Belpietro, quindi diciamo che ci poteva stare. I conti potevano farli prima, se un governo in 7 anni non può impegnare 4 miliardi, eccetera, eccetera. Ma i conti potevano farli prima. Io credo che questo governo i conti li abbia dovuti fare e li stia tuttora facendo molto, ma molto d'urgenza, e soprattutto che abbia dei conti leggermente più impegnativi di quelli che riguardano l'edizione 2020 di Giochi senza frontiere. Quindi sinceramente credo che appunto avessero qualcosa di un pochino più serio a cui pensare. Quando è stato il momento hanno dato un'occhiata anche ai conti olimpici, anche allo straordinario progetto di Petrucci e di tutti i promotori e organizzatori, mi hanno detto no grazie, semmai la prossima volta. Dunque, la Lega di Serie A ha convocato l'assemblea per venerdì 2 marzo e all'ordine del giorno c'è la sfiducia al presidente uscente, peraltro, ma uscente da un anno comodo, che sarebbe Beretta, un'altra di quelle vicende leggendarie che solo lo sport italiano può proporre. Mariano dalla Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Una proposta che sì. Sto notando che sorprendentemente tutti ci accorgiamo che spendendo male i soldi ci si riempie di debiti. È strano che ce ne stiamo accorgendo. Strano, eh? È strano, sì. Esiste un'agenzia delle entrate che funziona benissimo, con tutto un sistema di perseguire chi deve pagare, chi non è corretto, si aumentano anche le sovratasse, eccetera. Io sono per un'agenzia delle uscite, cioè una stessa struttura identica che funziona per le amministrazioni pubbliche, di conseguenza penalizza chi va oltre i budget, visto che i bilanci sono fatti di entrate e di uscite. Quindi seguire le uscite così come si seguono le entrate potrebbe essere un'idea. L'agenzia delle uscite non è davvero, ma niente male. Io credo che causa un'influenza, ieri sera mi sono purtroppo dovuto, come tanti italiani, sorbire involontariamente, direi passivamente, insomma, un po' di monologhi sanremesi. Io credo che una battuta di questo livello ieri sera non si sia certamente sentita, per esempio. Credo che l'agenzia delle uscite, con tutta la congrega di autori che hanno mobilitato per Sanremo, non ci siano arrivati. Ricominciamo domani. Per adesso grazie a tutti voi che siete intervenuti, a Franco Piantanida che ha curato la parte redazionale, a Filippo Aureggi che ha curato quella tecnica. Buon pomeriggio.